solo un paso da sfiorare il cielo. Sto sfidando la gravità. Questo sogno è così grande che niente mi sveglierà. So che non esiste la paura quando credi in quel che fai. L'emozione e la spinta che in me.